Do il benvenuto ad Alessandra Marolla e a Carolina Altilia. Ciao ragazze e benvenute ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti, grazie. Grazie a voi. Allora, siete entrambe curatrici di collagene e proteine culturali. Ci volete innanzitutto spiegare che cos'è questo progetto? Allora, collagene e proteine culturali è una rassegna di eventi artistici aperta al pubblico, il cui obiettivo, o meglio uno dei tanti obiettivi, è quello di mettere in dialogo linguaggi artistici differenti. Ogni evento prevede l'accostamento, la congiunzione, l'incontro tra progetti differenti in un'ottica di sperimentazione e quindi ogni volta è sempre un qualcosa di diverso. Quello che è l'evento è sostanzialmente un esito di un lavoro che c'è a monte, che è la residenza artistica. La residenza artistica è un momento, un tempo, uno spazio protetto dedicata appunto alle artiste e agli artisti coinvolti per poter sviluppare la propria progettazione e provare appunto ad incontrarsi tra loro auspicabilmente o anche no. Sì, sostanzialmente Collagene ha come dire un po' l'ambizione di mettere in comunicazione linguaggi artistici differenti anche là dove non si sono scelti. Quindi sostanzialmente noi abbiamo fatto una selezione di progetti, quindi che hanno a che fare con artisti, collettivi, compagnie che hanno elaborato i progetti presentati e li abbiamo messi in comunicazione. La volontà che sta alla base è stata quella di ibridare i linguaggi, quindi il performativo incontra il visivo, il sonoro incontra l'installativo, il test physic, eccetera. Quindi una sorta di sperimentazione in divenire che ha accolto comunque il parere favorevole, perché noi inizialmente eravamo anche molto, come dire, titubanti su questo tipo di lavoro che volevamo proporre, perché molto spesso il lavoro è autoriale ed è, come dire, settoriale anche in un certo senso, perché ogni linguaggio ha una sua vocazione, un suo percorso, una sua storia e delle scelte che stanno alla base, giusto? Per cui era un po' voler mettere in comunicazione linguaggi differenti anche laddove non si erano propriamente scelti. Quindi era un po' sarà una scelta rischiosa, però per quello che stiamo vedendo sembra andare bene, avere una buona risposta in primis da parte degli artisti che iniziano a collaborare insieme in uno stesso luogo e anche il pubblico, insomma, sembra apprezzare questa sorta di visione ed esperimento che sta accadendo. Avete parlato di eventi che si terranno proprio al DAS e ci potete accennare, insomma, che cosa riguarderanno gli ultimi due eventi di novembre, quindi quello del 16 e quello del 30 novembre? Allora, quello del 16 novembre, che è quello più imminente, vedrà la partecipazione di Caneco Studio, che presenta un progetto dal titolo Portale Luminoso, ed è sostanzialmente un'installazione luminosa, interattiva, immersiva. È un'esperienza che il pubblico, insomma, farà attraversando questi archi iridescenti, diciamo. Questo progetto lo abbiamo accostato a un progetto di spoken music dal titolo Debito di Mora. Mora è un duo, diciamo, artistico composto da Sebastiano Mignota e il pianista Daniele Bettini. E loro hanno, insomma, prodotto questo concept album che gira intorno al concetto di debito, diciamo, toccato da più punti di vista: economico, personale, umano, sociale e così via. E invece poi il 30 novembre, lo lascio dire ad Alessandra, che tra l'altro ha curato la residenza artistica. Allora, difficile parlare di questo evento perché per tanti motivi, perché spesso le residenze sono per noi un modo per conoscere gli artisti e permettere loro di lavorare in un luogo protetto, in uno spazio-tempo in cui poter portare avanti la propria ricerca artistica. ma non sempre ovviamente l'esito che sarà quello pubblico è perfettamente coincidente con quello che noi abbiamo visto accadere durante la residenza, perché poi quello è sempre in divenire in qualche modo, no? Allora, noi comunque il 30 novembre ospiteremo Orecchie d'Asino, che è un collettivo di due giovani artiste. Il progetto si intitola La fine del giorno, è sostanzialmente un progetto che lavora su linguaggi multidisciplinari, sostanzialmente si colloca nel performativo, per intenderci, quindi tra il teatro, la performance, l'installazione sei specific, gli elementi coreografici sono studiati su misura per lo spazio, e il progetto di per sé lavora su un doppio binario, che è quello del reale e dell'onirico sostanzialmente, quindi il sogno e la realtà si incontrano in un certo senso attraverso media diversi, linguaggi diversi che vanno da quello del corpo, della performance, a quello dell'audiovisivo, della sonorizzazione. Quindi loro si ispirano ad elementi quotidiani, reali, che si mescolano a quelli onirici partendo da suggestioni molto personali. Poi Gold Little Spaces è invece un progetto di ex TRO di Chiara Carretti, sostanzialmente, che lavora sull'aumentazione degli strumenti sonori, in particolare in questo caso della tromba, dove la sorgente sonora, che è lo strumento musicale, viene in qualche modo manipolata attraverso elaborazioni elettroniche, sostanzialmente dei conduttori, che ne alterano quindi la possibilità di individuarne la fonte, e tutto questo viene poi recepito e restituito in una chiave che sarà anche per noi una sorpresa, perché si incontrerà con i suoni registrati in tempo reale, quindi delle persone che attraverseranno in quel momento lo spazio. Io ragazzi vi ringrazio per averci raccontato gli eventi di Collagene Proteine Culturali e insomma ci sentiamo per i prossimi. Grazie a voi e ci vediamo anche a Collagene. Ci sentiamo e ci vediamo. Assolutamente. Novembre prossimo ad AS, Via del Porto 11/2 ovviamente.